GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Immigrazione, mentre il governo dichiara lo stato di emergenza, il prefetto comunica i numeri degli arrivi in Friuli Venezia Giulia, ingressi quadruplicati da un anno all'altro a Trieste e triplicati in regione. Molestie a sfondo sessuale, sospeso dall'attività un educatore di un ricreatorio triestino, al momento sono 4 le ragazzine molestate, il procuratore nell'interrogatorio l'indagato ha reso significative ammissioni. La nuova giunta regionale per Fedriga, ieri primo giorno di colloqui con i partiti della sua maggioranza. Il presidente ha chiesto una rosa di nomi sulla base delle competenze. Secondo confronto forse venerdì. Oggi cerimonia in tutta la regione per la festa della polizia. Saranno deposte corone in memoria dei caduti in divisa e si faranno i bilanci dell'attività svolta in un anno. Al Verdi di Pordenone anche un concerto. Primi bilanci dopo 3 mesi di attività per l'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria aperto a Monfalcone dall'azienda sanitaria. L'obiettivo è dare risposte a chi è rimasto senza medico di base. Donazioni di organi, il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le regioni italiane più generose. Al primo posto in regione c'è San Pier di Sonzo, alle spalle si piazzano Socchieve e Malborghetto Valbruna. Da oggi a Trieste il convegno annuale della Società Italiana di Biologia Sperimentale, Neuroscienze e Oncologia, alcuni dei temi che saranno affrontati da esperti provenienti da tutta Italia. Non solo Trieste, il Castello di Miramare che in pochi giorni stacca migliaia di biglietti, a Pasqua e Pasquetta è stato boom di arrivi anche a Udine Cividale, i numeri sono al di sopra di ogni aspettativa. Oggi 2 appuntamenti, uno a Udine e uno a Pordenone contro la violenza economica sulle donne. Delle dimensioni del fenomeno in Friuli Venezia Giulia abbiamo parlato con un'esperta di Confartigianato. Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. Il cielo è nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Vediamo le temperature registrate alle 6. A Trieste 9,5 gradi, Gorizia 6, Udine 8, Pordenone 4, Tolmezzo 5, Forni di Sopra 4, Treviso e Sappada 1,5 gradi, Piancavallo 2, Monte Lussari e Monte Zoncolan -1 grado e Lignano 9. Le previsioni oggi su tutta la regione: cielo da nuvoloso a coperto, peggioramento in tarda serata ad iniziare dalle zone occidentali. Ieri sera il governo ha proclamato lo stato di emergenza per far fronte al forte aumento degli arrivi di migranti. Sono previsti un primo finanziamento di 5 milioni di euro e poteri straordinari per gestire le situazioni di crisi. Secondo il Corriere della Sera circolerebbe il nome di Valerio Valenti come possibile commissario ad hoc. Fino a poco tempo fa era il prefetto di Trieste. Poche ore prima, sempre a Trieste, il commissario di governo del Friuli Venezia Giulia illustrava i numeri degli arrivi dalla cosiddetta rotta balcanica riferiti ai primi 3 mesi dell'anno. Hanno superato di molto quelli del 2022, mentre il sistema dell'accoglienza è già saturo. 2.600 richiedenti asilo giunti a Trieste dalla rotta balcanica tra il primo dell'anno e il 27 marzo, più del quadruplo dei 578 arrivati nello stesso periodo del 2022, più che triplicati, sempre nel primo trimestre 2023, anche gli ingressi registrati in regione, 4.200 contro i 1.700 di un anno fa. Nel divulgare i numeri, il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, ribadisce che se la linea di tendenza osservata resterà questa, quest'anno sarà peggiore del precedente, prevedendo una situazione molto complessa nei prossimi mesi, visto un sistema di accoglienza già saturo. Sono 1.300 i richiedenti asilo accolti oggi a Trieste, fa sapere ancora Signoriello, rilevando che ci si mantiene in equilibrio grazie ai ricollocamenti in altre regioni. Conferma numeri in forte aumento anche il questore di Gorizia Paolo Gropuzzo, anticipando uno dei temi centrali del suo discorso per la festa della polizia. Sebbene la situazione nell'Isontino oggi appaia ancora gestibile con 600 migranti presenti, il questore rileva che risultavano già un record dei circa 3.000 ingressi registrati sul suo territorio nel 2022, vicinissimi a quelli rilevati a Trieste e in regione nei primi 3 mesi di quest'anno. Si continua intanto a cercare nuovi spazi per l'accoglienza, ma resta difficile trovarli, afferma ancora il prefetto di Trieste, annunciando un nuovo vertice tra prefetture il prossimo 18 aprile, già individuata ed ora al vaglio una soluzione per il previsto hotspot, anticipa infine Signoriello, sottolineando che la gran parte dei migranti che entrano dal confine italo-sloveno sono in transito e per questo si sta lavorando con organizzazioni umanitarie, comune, Asugi, Polizia di Frontiera e Questura per assicurare una primissima risposta al loro passaggio, in aggiunta ai servizi sociosanitari già da tempo attivati. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Il GIP del Tribunale di Trieste ha sospeso dall'attività un educatore di un ricreatorio triestino. Gli ha imposto il divieto di avvicinamento a quattro ragazze di 13 anni dopo una serie di episodi di molestie. Non deve essere stato facile per due ragazzine di 13 anni parlare delle molestie che subivano da quel maestro del servizio scolastico integrato che aveva il compito di supervisionare il pranzo, aiutarle nei compiti e nel gioco pomeridiano. Si sentivano a disagio per le frequenti battute a sfondo sessuale e quella mano che toccava le loro parti intime. Si sono confidate con due professoresse della loro scuola media, sapevano che le avrebbero capite e non giudicate. Ora quel maestro ultra quarantenne deve rispondere di molestie su ben quattro ragazzine. Il suo datore di lavoro, il comune di Trieste, lo ha prontamente sospeso da ogni scuola pubblica. Le indagini, dirette dalla sostituta procuratrice Maddalena Kergio e condotte dalla polizia locale con agenti della questura, hanno accertato che quegli atteggiamenti avevano riguardato anche altre ragazzine, palpeggiate ripetutamente. Per questo ha il divieto di avvicinarsi a quattro ragazzine, un provvedimento emesso il 31 marzo. Interrogato dal GIP il 5 aprile, l'educatore ha ammesso in modo significativo le sue responsabilità. Per proteggere l'anonimato delle minorenni coinvolte, non è stato divulgato il nome dell'accusato o del ricreatorio nel quale lavorava. Gli insegnanti, educatori e minori, ascoltati dagli inquirenti, hanno confermato che spesso il maestro cercava la compagnia delle ragazzine e allungava le mani. Agli atti ci sono anche varie immagini che lo testimoniano. La procura ha reso noto questa indagine per incoraggiare altre eventuali vittime a parlare con le forze dell'ordine. Denunciare subito gli abusi è importante per proteggere i ragazzi che vivono la delicata fase della pubertà. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma come si riconoscono i segnali della pedofilia? Quali sono i campanelli d'allarme? Lo abbiamo chiesto a Don Fortunato Di Noto, fondatore di un'associazione che ha sede in Sicilia e che si occupa di monitoraggio, denunce e accompagnamento e ascolto delle vittime. Sarà proprio oggi a Trieste e sarà il protagonista di un incontro dal titolo In mano di chi? Un incontro nella parrocchia di Valmaura alle 20. Sentiamolo. Il problema è che non è facile riconoscere un segnale. Un segnale può dire tutto e può dire niente, però i nostri giovani hanno bisogno dei punti di riferimento. Allora il problema è se i nostri ragazzi hanno dei punti di riferimento certi, leali, responsabili, io credo che lì possono trovare nel loro naufragio della vita una possibilità di un porto sicuro affinché possano trovare sostegno, ascolto, accompagnamento, cura e percorsi di vita, perché l'abuso è sempre un omicidio psicologico, viene uccisa veramente la parte più importante della vita di un minore. L'associazione Meter è stata definita, siete stati definiti pionieri nella lotta alla pedofilia. Come è strutturata la vostra rete? Meter è una realtà nazionale e internazionale, al di là dell'aspetto dell'attenzione che abbiamo nei confronti di internet, che non deve essere demonizzato, ma che comunque ormai è uno dei veicoli principali dove avvengono sia gli adescamenti attraverso il sistema del grooming. È necessario utilizzare internet ma con intelligenza e con parsimonia, e soprattutto non digitalizzando troppo il proprio corpo, mettendo foto e video anche su richiesta, e quindi stare attenti a tatti. E dall'altra parte ovviamente con il centro di ascolto, per noi è fondamentale l'accompagnamento delle vittime. In tutti questi anni abbiamo convidato più di 2000 vittime, ecco, di abusi sessuali anche legati al web. Meter fa anche poi incontri nelle scuole, i percorsi con le università, gli studi scientifici. Abbiamo un partenariato con la Polizia Postale Italiana affinché si possano sviluppare anche delle azioni investigative, affinché Meter possa diventare l'occasione buona e sempre propizia per difendere e tutelare i minori di cui oggi la società ha tanto bisogno. La politica, il neo rieletto presidente della regione Fedriga è alle prese con i primi colloqui con gli alleati per la composizione della nuova giunta. Il primo giro si è svolto ieri e forse venerdì ci sarà una nuova tornata di confronto. Il presidente Massimiliano Fedriga ha tenuto il colloquio sulla composizione della giunta con il segretario regionale della Lega Marco Dreosto a Udine. Poco prima il leader nazionale del partito Matteo Salvini aveva detto che in linea di principio è giusto che chi viene nominato assessore si dimetta da consigliere. Un'indicazione che almeno in casa Lega permette ai primi dei non eletti di sperare in un subentro. La prima giornata di faccia a faccia con i rappresentanti dei partiti era cominciata presto, al mattino, con Fratelli d'Italia presenti il segretario regionale Walter Rizzetto e il ministro rapporti col Parlamento Luca Ciriani. E poi proseguita con una telefonata alla coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino nel pomeriggio. I colloqui sono stati definiti interlocutori, non sono stati fatti nomi. Federica ha chiesto ai partiti di proporre diverse opzioni anche sulla base delle competenze, una rosa su cui poi sarà possibile scegliere per incastrare le caselle di una giunta che deve essere rappresentativa dei territori e avere almeno 3 donne. Sulla trattativa il governatore vuole far pesare i 65.000 voti che ha ottenuto personalmente che non sono andati alle liste. Significa che Federica avrebbe diritto almeno un assessore a suo nome, oltre ai 3 della sua civica, come è accaduto in altre regioni, ad esempio in Lombardia, si ragiona. A quel punto qualcuno tra Fratelli d'Italia e Lega dovrebbe rinunciare a uno dei suoi, per ciascuno l'ipotesi era di 3 assessori. Il leghista Dreosto fa sapere che domani si riunirà con i segretari provinciali e che oggi vedrà separatamente i dirigenti regionali di Fratelli d'Italia e Forza Italia a Roma, dove tutti si trovano per gli incarichi parlamentari e di governo. In ballo, oltre alla composizione della giunta, ci sono la vicepresidenza della regione, la presidenza del consiglio e le presidenze delle commissioni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi si celebra il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia a Trieste si svolgerà nella sala del ridotto del Teatro Verdi alle 10, mentre alle 9 sarà deposta una corona in memoria dei caduti della Polizia di Stato presso il famedio della Questura. A Udine la corona d'alloro sarà deposta al monumento in Piazzale d'Annunzio alla presenza del Questore e del Prefetto, mentre la cerimonia si terrà alle 10.30 nel Salone del Parlamento friulano all'interno del castello. A Pordenone la parte istituzionale dell'anniversario con il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato nell'anno 2022, la consegna dei riconoscimenti al personale distintosi in servizio si terrà alle 11 al Teatro Verdi, che la sera alle 20.30 ospiterà il concerto della FVG Orchestra diretta dal maestro Paolo Paroni e che proporrà musiche di Tchaikovsky e Brahms. Anche a Gorizia la cerimonia si svolgerà alle 11, ma presso la sala Giuseppe Verdi di Palazzo De Bassa. La cerimonia sarà preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro alle 9 presso il cimitero di Monfalcone e alle 10 presso il Parco della Rimembranza. Il primo ambulatorio sperimentale di assistenza primaria attivato a Monfalcone dall'azienda sanitaria si avvia a tagliare il traguardo dei 3 mesi di lavoro sul territorio. Siamo andati a vedere qual è il bilancio di questa fase iniziale. 6 ore di ambulatorio dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 17, più altre 6 di back office, reperibilità e visite domiciliari, praticamente il doppio di un medico di medicina generale. L'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria aperto il 16 gennaio in via Crociera a Monfalcone andava a sopperire alla cessazione di 2 medici nei rioni del centro città e di Largo Isonzo. Fino ad oggi ha ricevuto una media di 20 utenti al giorno. Carlo De Vuono, direttore del distretto Basso Isontino dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La popolazione ha accolto molto favorevolmente questo servizio, in quanto offre un'apertura molto ampia. Partecipano 4 medici che si alternano 12 ore al giorno. Con il comune abbiamo analizzato qual era la zona della città più scoperta e quindi il servizio sicuramente continuerà fino a quando il numero dei medici di medicina generale non sarà sufficiente a coprire tutte le necessità del territorio. Uno dei medici dell'ambulatorio sperimentale è il dottor Antonio Perulli. Man mano che i pazienti hanno avuto modo di conoscerci frequentando l'ambulatorio, abbiamo dimostrato di poter garantire una continuità a livello lavorativo e professionale e soprattutto anche un ottimo rapporto con l'utenza. Ma uno dei problemi più sentiti a Monfalcone è anche quello dei lavoratori trasfertisti per l'indotto Fincantieri che non hanno un medico di medicina generale in città. Sergio Trani, del Tribunale per i diritti del malato di Monfalcone. I trasfertisti possono richiedere la tessera sanitaria regionale provvisoria. Con questa possono accedere al medico di medicina generale. Per quelli che ancora non ce l'hanno, si possono rivolgere al SISAP, Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria, semplicemente telefonando a un numero verde che è l'800 614 302. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le regioni italiane più generose per quanto riguarda la donazione del sangue ma anche degli organi. È al quarto posto. Al primo posto in regione San Pier di Sonzo. Alle spalle si piazzano Socchieve, Malbrughetto, Valbruna. San Pier di Sonzo, in provincia di Gorizia, è il comune più generoso del Friuli Venezia Giulia in fatto di donazione di organi. Lo certifica l'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti, che analizza i numeri delle dichiarazioni registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica. L'indice è stato pubblicato in vista della 26esima giornata nazionale della donazione degli organi, che si celebrerà domenica 16 aprile. I valori tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi. San Pier di Sonzo ha raggiunto un indice del dono di 82,90 su 100, grazie ad un tasso di consensi dell'88,5%, con un'astensione del 19,6, un dato che è valso il primato regionale davanti a Socchieve e a Malborghetto Valbruna in provincia di Udine. Udine è la migliore tra le province del Friuli Venezia Giulia nel complesso, 12esima su 107 a livello nazionale, mentre Trieste è 22esima, Pordenone 23esima e Gorizia 27esima. Il Friuli Venezia Giulia è risultato quarto tra le regioni italiane, scalando una posizione rispetto al 2021, con un indice del dono di 63,07 su 100, sopra la media nazionale che nel 2022 si è attestata a quota 56,64. Nel 2022 in Italia sono stati registrati 2,8 milioni di nuove dichiarazioni di volontà alla donazione, 1,9 milioni di sì, il 68,2%, ma anche quasi 900.000 no, il 31,8%, con un leggero peggioramento rispetto al 2021. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Società Italiana di Biologia Sperimentale ha scelto Trieste per il proprio evento nazionale annuale che comincia oggi. Eccellenze scientifiche provenienti da tutta Italia si confronteranno su temi quali la biologia nello spazio, opportunità di lavoro, neuroscienze, l'oncologia sperimentale, la biologia negli ambienti acquatici e molto altro. Obiettivo del congresso è quello di porre a confronto le realtà imprenditoriali di ricerca, la pubblica amministrazione, le istituzioni e i giovani scienziati. Tre le sedi, si comincia alle 14 nella sala maggiore della Camera di Commercio della Venezia Giulia a Trieste, domani e venerdì ci si trasferisce all'area Science Park e sabato al Castello di Miramare. E a proposito di Castello di Miramare, tra sabato, domenica e lunedì di Pasqua ha fatto registrare oltre 6.000 ingressi, più di 14.000 nel parco, anche grazie alle prime fioriture di primavera che hanno attirato un numero elevato di turisti, oltre a tanti triestini. Il prossimo ponte festivo, legato al 25 aprile, prevede anche un'apertura gratuita. Il ministro della Cultura ha annunciato infatti nei mesi scorsi che i musei statali saranno visitabili gratuitamente in tre date simbolo, 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre, oltre alle prime domeniche del mese. Turismo a gonfie vele per la regione che incassa arrivi più che lusinghieri in queste giornate di festa, dunque a fare la parte del leone oltre a Trieste, le località ricche di storia e cultura come Aquileia e Cividale. Non tutti gli operatori del settore si aspettavano un tale afflusso di turisti nelle città d'arte friulane. 1 o 2 giorni al di sopra di ogni aspettativa, tanti agli accessi agli infopoint per prenotare visite o solamente per consigli su itinerari culturali. Il capoluogo friulano ha fatto la sua parte con 750 visite a Casa Cavazzini, che raggiunge il traguardo di 10.000 accessi dall'inaugurazione della mostra Insieme, 500 gli accessi al castello e al museo etnografico solo nella giornata di Pasqua. Squetta, boom di prenotazioni negli alberghi. Giuliana Ganzini, albergatrice. Bilancio molto positivo, la città è stata molto animata credo da turisti, noi ne abbiamo ospitati diversi nei nostri alberghi, nel nostro albergo come negli alberghi della rete Udine Chiavi in Mano, turisti che si sono fermati anche più di 2 giorni, 3 di nazionalità straniera, il classico mercato austriaco-tedesco, ma anche italiani. Bene Cividale del Friuli con un'offerta museale che ha pagato, con oltre 500 ingressi all'archeologico, al tempietto longobardo e al museo cristiano. Tanti turisti provenienti da fuori regione, ci dice la direttrice dell'archeologico Angela Borzacconi. Oltre 200 hanno poi visitato la galleria della famiglia De Martis a Palazzo De Nordis per ammirare, oltre alla alla galleria Il San Girolamo del Tiziano, a cui lei ha fatto la parte del leone, con oltre 9.000 accessi nei luoghi della cultura, tra basilica, archeologica e musei, ci conferma il presidente della Fondazione Aquileia, Roberto Corciulio. Oltre 25.000 i turisti presenti, secondo i dati dell'amministrazione comunale. Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'uguaglianza di genere e la violenza economica, se ne parla al convegno a Pordenone, azione di sistema per prevenire la violenza economica contro le donne. Questa è l'ultima tappa del progetto realizzato dal comune di Pordenone come ente capofila. L'appuntamento è alle 15 in sala Degan della Biblioteca Civica. E sul tema della violenza economica vuole far riflettere anche il movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine, che propone questa sera al Cinema Visionario di Udine la proiezione di Libere di Vivere, un documentario sul tema della violenza economica, che sarà presentato alle 20 dalla sua autrice e fondatrice di Global Thinking Foundation, Claudia Segre. Ma sentiamo Eva Seminara di Confartigianato Udine. Trovare un'occupazione nell'artigianato utilizzando ed accrescendo le proprie competenze e passioni può servire senz'altro a creare una vita indipendente, lontana dalla violenza di genere. Queste non sono parole mie, sono parole della presidente del nostro movimento Donne Impresa, Filomena Volio, che ha sempre agito nel modo più efficace possibile per contrastare questo fenomeno. Quanto è diffusa la violenza economica nella nostra regione? È un fenomeno probabilmente non largamente diffuso in regione fra le nostre connazionali, senz'altro molto diffuso tra le persone che sono immigrate in questa regione, sia comunitarie che extracomunitarie, soprattutto queste ultime. E comunque la scarsa conoscenza della finanza, dell'economia, della gestione del denaro è diffusa purtroppo anche fra le italiane, e quindi noi non siamo così lontane dal problema. Quali sono le soluzioni? Innanzitutto una conoscenza degli strumenti economici a disposizione, che vanno dal microcredito ad altre soluzioni per le piccole imprese, e poi l'avvicinamento e la possibilità di testare i mestieri artigianali, di provare a mettersi in gioco in prima persona, è sicuramente un'altra soluzione possibile per questo problema. Vivere, far crescere una piccola impresa è non solo una salvezza economica, ma anche una salvezza proprio dal punto di vista personale, della propria realizzazione. Lo sport, con il calcio di Serie C, il Pordenone si affida nuovamente all'allenatore che era stato esonerato 5 settimane fa, Domenico Di Carlo, nel tentativo di chiudere bene la stagione ed evitare almeno i primi turni dei play-off promozione. Di Carlo torna sulla panchina nero-verde al posto di Mirko Stefani, che lascia l'incarico dopo 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e con la squadra scivolata al 4º posto. Obiettivo ora: migliorare la posizione in classifica. Mancano 2 partite alla fine della stagione regolare, quella esterna con il Vicenza di domenica prossima e uno scontro diretto che può valere in caso di vittoria la certezza almeno del 4º posto, che eviterebbe alla squadra il 1º turno della fase dei play-off. Ultima gara della stagione regolare il sabato successivo in casa contro l'Albino Leffe. Alle 7.41 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal Piccolo di Trieste, molestie al ricreatorio, educatore sospeso, questo il titolo principale. Accanto una grande foto di Roberto Bolle che richiama un'intervista al grande ballerino che dal 25 al 26 aprile sarà a Trieste al Teatro Rossetti. Accanto al via i confronti sulla nuova giunta per i leghisti, dimissioni da all'aula, nel senso che gli assessori della Lega, secondo quanto ha detto ieri Salvini a Udine, si dovranno dimettere dal Consiglio regionale per lasciare spazio ai primi non eletti. Per la cronaca cittadina, statua e quadro dedicati alla Madonna lasciati in strada e poi, leggiamo all'interno dell'articolo, recuperati dal parroco di Servola. Agenzia portuale in aumento nel 2022, fatturato e produttività. la cittadella dello sport Summer, cantiere al via dopo 4 anni, e poi arriva la pizza con i grilli tostati. All'interno leggiamo che a fare questa pizza è una pizzeria di Trieste che l'ha chiamata Grillo Sparlante. Gli insetti, per la cronaca, vengono da una azienda tedesca che alleva grilli commestibili. Da Letizione dell'Isontino, ambulanze, una corsa a ostacoli per l'ospedale, la denuncia del Tribunale dei diritti del malato, carreggiata ristretta dopo i lavori di via Aquileia. E ancora proroga al carbone dal Ministero, parliamo della centrale di Monfalcone, ma per la centrale l'accordo tiene. Sale comunali, nuove regole per la concessione gratuita a grado. Infine, il dopo Boolean a Turiacco, giunta guidata dal vice sindaco. Il Messaggero Veneto, nell'edizione del Friuli di Pordenone, apre con lo stesso titolo: nelle scuole della regione 23.000 studenti stranieri, sono il 17% degli iscritti, quasi la metà è nata in Italia ma non ha la cittadinanza. La direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, dice: sono una risorsa, la maggior parte ha raggiunto un buon livello di conoscenza linguistica e lo rivelano le prove Invalsi. La fotonotizia in prima pagina nell'edizione del Friuli è dedicata a un sergente maggiore friulano, Luca Sorrentino, da San Giovanni all'Antartide. Udine verso il ballottaggio, al quale è dedicato anche il capocronaca nelle pagine interne. Salvini rassicura Fontanini, recuperare l'ex AFAU e il tour di De Toni in periferia con il centrodestra, quartieri poco ascoltati. Ancora altri titoli in prima pagina: stazione di Udine funzionerà per Pasqua ma l'ascensore è ancora fermo, e a Codroipo la sosta in centro torna ad essere a pagamento. La prima pagina del Messaggero Veneto, nell'edizione di Pordenone, qui troviamo altri titoli: assessorato all'urbanistica, Diomede al posto di Ammirante, e poi il voto nei comuni, una novità e 5 conferme nella giunta di Fiume Veneto. Tra gli altri titoli, la criminalità albanese si è infiltrata, l'allarme arriva dalla SPAC, la procura speciale balcanica contro la corruzione, ricordati i legami con Pordenone a 6 mesi dalla maxi indagine sulle truffe online in provincia, e a Pasiano infortunio in un mobilificio, operaio colpito al torace. Le pagine interne, il capo cronaca sempre dal Messaggero di Pordenone: negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta e i turisti migrano per lo shopping, lo staff dei tornei giovanili costretto a mandare atleti e famiglie fuori provincia, e poi il comune studia orari prolungati per i grandi eventi ma Pasqua si rispetta. L'apertura del Gazzettino nell'edizione dedicata al Friuli riguarda l'ambiente. Il titolo è: dal piombo al petrolio, i siti inquinati. La regione aggiorna la cartina delle zone ancora a rischio. Tante operazioni di bonifica già partite. Allarme all'ex Amman, la base di Aviano ha 5 punti monitorati. L'acqua di mare si salva e conquista ottimi parametri per l'estate. La fotonotizia ci mostra un gruppo di persone sedute in un bosco, il titolo: la foresta di Tarvisio come terapia. Nella didascalia leggiamo: un viaggio esperienziale nel bosco che ha portato alla nascita di un libro e poi di una vera e propria accademia. Accanto, piano di emergenza, basta veti, va approvato, si parla del piano regionale in tema di emergenza sanitaria. E ancora in tema sanità, infermieri, le aziende fanno a gara per assumere. Per la politica, Fontanini a caccia di voti, si tratta di un virgolettato attribuito a Salmè, che era uno dei candidati in corsa a Udine. Sotto, sempre dal capoluogo friulano, ascensori, si parla della stazione ferroviaria, ancora al palo il Movimento 5 Stelle protesta. Sotto, per lo sport, Udinese verso il ritiro per battere la Roma. Accanto, Buratti diventa pro e corre la Brabante. Basket di A2, Old Wild West, aspettando la capolista c'è una difesa tutta da registrare. dal Gazzettino di Pordenone, il titolo di apertura: Bagni, unisex e alias, il liceo svolta. Da oggi il Grigoletti dedica un piano ai servizi senza distinzione di sesso e approva il regolamento per cambiare nome sul registro. Decisiva la richiesta di uno studente per evitare discriminazioni. La dirigente: ci sarà polemica, ma difenderò sempre la mia scelta. Sotto: droga e riciclaggio, le mani sulla città dei clan albanesi, la denuncia del capo della procura di Tirana e le indagini partite dal Friuli. Ancora una notizia di cronaca: Cordenons, nonna di tre nipoti, molestata nei campi da un uomo in bicicletta. La fotonotizia ci mostra una escort mappa del sesso a pagamento. Il maggiore numero di escort presenti in Friuli Venezia Giulia si trova a Pordenone, una città frizzante dunque, scrive sempre la didascalia, sotto questo punto di vista. Non a caso sono circa un centinaio le squillo di lusso che lavorano in casa e si mettono in mostra sui siti, tariffe da 40 a 150 euro. Ambiente: dal piombo al petrolio, allarme inquinamento. E ancora da Fiume Veneto c'è la giunta Canton Bis, il volto nuovo e le conferme. Per lo sport: Di Carlo già al lavoro con i Nero Verdi. Sensibilizzare ed educare turisti, cittadini, operatori del settore turistico e studenti sul tema della riduzione dei rifiuti e della loro corretta gestione e prevenzione. L'obiettivo di Rifiuti in Piazza, 4 iniziative pubbliche a Grado, Lignano Sabbiadoro, Sappada e Tarvisio, organizzate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, l'ARPA, in collaborazione con i 4 comuni e l'Università di Udine. Si parte da Grado di fronte al municipio alle 9.30. E ora per gli spettacoli, il conduttore televisivo e radiofonico, autore, attore e scrittore Alessandro Cattelan sarà questa sera ospite del teatro Rossetti con Salutava sempre, lo spettacolare fine di Alessandro Cattelan. Il protagonista racconta con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante un mondo di cui ormai non fa più parte e dove con la morte si è guadagnato il privilegio della totale sincerità. Gioele Dix e Valentina Cardinali ritornano in regione per 2 serate del circuito ERT con La corsa dietro il vento, l'omaggio che l'attore milanese ha voluto dedicare a Dino Buzzati. Lo spettacolo andrà in scena alle 20.45 all'Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Secondo appuntamento del nuovo cartellone di primavera dei concerti del Conservatorio Tartini di Trieste. Sul palcoscenico della sala alle 20.30 si esibisce la pianista Ivana Franceschi con un programma dedicato ai compositori croati per pianoforte dal XVIII al XX secolo. Un concerto in collaborazione con l'Accademia di Musica Università di Spalato nell'ambito del progetto Erasmus. La 101ª stagione concertistica degli Amici della Musica si chiude con un recitale virtuosistico di Roberto Cappello. Il noto pianista è atteso sul palco del Palamostre di Udine alle 19.22 con un programma dal titolo Il cammino mistico dell'anima. In programma i brani legati dalla scrittura trascendentale di Liszt. Il regista Mirko Locatelli presenta a Cinema Zero di Pordenone il suo nuovo film dal titolo La memoria del mondo, un viaggio fisico e spirituale tutto girato in regione, dalle grotte di Pradis alla laguna di Grado. Intervengono il regista e la sceneggiatrice Giuditta Tarantelli. Inizio alle 21. Il cinema sociale di Gemona ripropone la trilogia della frontiera del regista triestino Franco Giraldi, scomparso nel 2020. Si comincia questa sera alle 20.45 con La rosa rossa, tratto dal romanzo omonimo di Pier Antonio Quarantotti Gambini, è interamente girato in Istria, ambientato nel primo dopoguerra. La visione sarà anticipata dal video introduttivo del professor Luciano De Giusti, già curatore del libro di Franco Giraldi.